Questo 14° capitolo di Giovanni è proprio un brano molto bello e molto consolante. Vorrei riproporvelo come l'ho gustato io, se riesco a farlo gustare anche a voi. Il Signore Gesù disse: "Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore." Ecco, questa frase, "la casa del Padre mio", è una parola che usiamo anche noi, soprattutto di fronte a un funerale, a una morte. "È tornato alla casa del Padre." È una frase che forse qualche volta leggiamo così, quando appunto una persona cara ci ha lasciato. Perché la casa del Padre indica, almeno alla nostra memoria, la casa della nostra infanzia, la casa del papà e della mamma, dove stavamo bene con i nostri fratelli, con l'amore del papà e della mamma. Ecco, la morte è il tornare alla casa del Padre. Io uso spesso questo brano durante i funerali, perché è un brano veramente tanto commovente e tanto emozionante. Anche quando usiamo la parola "nella casa del Padre mio vado a prepararvi un posto", anche questo è un termine che usiamo molto nella nostra vita quotidiana: il posto di lavoro. Il posto fisso indica una sicurezza, indica qualche cosa che ci appartiene. Ecco, anche il Signore ci promette un posto. Che bello, amici, se noi riuscissimo ad avere nei confronti della vita eterna questa mentalità, la casa del Padre, un posto dove il Signore va a prepararci. E poi aggiunge: "vi prenderò con me." Siamo abituati nel Vangelo di Giovanni a trovare questa frase, no? "Li chiamò perché andassero e stessero con lui." La vocazione dei discepoli: stare con il Signore. Oh, cari amici, forse non so se mi seguite, ma io mi dilungo su queste parole perché io le gusto. Quando leggo il Vangelo mi soffermo sulle singole parole: stare con il Signore. Perché dove sono io siate anche voi. E dove va il Signore? Il paradiso. Ci vuole portare in paradiso. Ci fermiamo noi a riflettere su che cos'è il paradiso, amici? O per noi la morte è solamente il distacco, che è vero, quello che è doloroso. Poi abbiamo come un duplice binario di ragionamento: questa è una valle di lacrime, però ci stiamo bene, eh? Meglio di qui tribolati che di là beati. Eh sì, amici, questo è il parlare popolare, questo è il parlare, sì, ha una sua, un suo senso, ma a noi manca il gustare le cose dello Spirito. Questo perché abbiamo poca preghiera di meditazione. Abbiamo tanta preghiera di parole. Io sono ammirato da chi dice: ho detto 3, 4, 5 rosari, mamma mia, come sei. Cerco di dirne anch'io più di uno al giorno, però sento tante volte il desiderio di stare qui in chiesa davanti al tabernacolo in silenzio, neanche a dire il breviario. Stare a guardare il Signore, ragionare. Stare a leggere queste parole. Io ho piacere di predicarvi perché prima me le gusto io queste parole. non vi faccio la predica per voi, a voi do il mio latte. Perché dove sono io siate anche voi, che bello, Signore. E questo caro Tommaso, sia benedetto questo Tommaso, famoso Tommaso, voglio toccare le sue piaghe. Questo Tommaso che salta su e dice, Signore, dici almeno l'indirizzo, sennò come facciamo sul navigatore a mettere la strada che dobbiamo fare? Io sono la via, la verità e la vita. Anche queste tre parole, no, che stanno scritte su diversi dipinti, su diversi mosaici antichi, noi li ammiriamo, li guardiamo, ma gustiamo queste parole. Io sono la via. Chi non conosce la via si perde. La verità, ognuno ha le sue verità, ma la verità vera è quella del mio Creatore, è la vita. Si muore, ma io amo dire, noi siamo diversamente vivi nella vita eterna. Signore, insegnaci a gustare queste parole, la via, la verità e la vita. E poi tu mi ripeti, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. È da qualche giorno che stiamo gustando nel Vangelo di Giovanni questo rapporto di Gesù con il Padre. Che bello! Lo commentavo anche l'altro giorno. Dio da cui prende nome ogni paternità in cielo e sulla terra. Dio è Padre e Madre, perché Dio ci ama con amore di padre e di madre. Allora ringraziamo il Signore che ci chiama qui a Messa, anche se siamo nel lockdown, però per fortuna stavolta i nostri governanti hanno capito che è inutile chiudere la Chiesa, perché la Chiesa c'ha spazio, guarda che distanze ci sono, guarda che cubature di respiro ci sono. Per fortuna, ecco, ci viene concesso con le dovute precauzioni, però, di partecipare alla Santa Messa, amici. Approfittiamone tutti i giorni di partecipare all'Eucaristia per conoscere Gesù, conoscere il Padre, chiedendo la sapienza dello Spirito Santo. Amen.